Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci di nuovo. Nessuna è perfetta. Dopo il caffè della domenica che ho appena preso con Enrico Letta, a proposito, quanti ne avete già presi voi? È il momento di parlare del tema che da qualche settimana ci accompagna: donne e lavoro. Partendo, ahimè, da una notizia non particolarmente confortante. Sapete che proprio ieri, sabato, è stato pubblicato il nuovo rapporto della Caritas sulla povertà. E qual è l'identikit del nuovo povero italiano? È una donna italiana con due figli. Pensate che nell'arco di qualche mese il numero delle donne che hanno chiesto aiuto da maggio a settembre, cioè subito dopo l'esplosione della pandemia del Covid e subito dopo il lockdown, sono state il 54,4% contro il 50,5% del 2019. E anche il numero dei giovani è cresciuto molto nelle richieste che sono state prese in considerazione dalla Caritas. Il numero dei giovani che appunto hanno chiesto aiuto alla Caritas è passato dal 20 al 22%. Questi sono i dati che ci devono far riflettere, e noi di lavoro, di donne, di come con il Recovery Fund si possa aiutare l'occupazione italiana e farla uscire da questa staticità che la condanna da anni agli ultimi posti nella classifica. Di questo parliamo questa domenica. Voi ci avete mandato le vostre opinioni, i vostri punti di vista all'828 12 12, che vi ricordo è il punto di arrivo dei vostri pensieri. 828 12 12, sentiamo. Buongiorno Maria, finalmente si sono accorti che siamo noi donne ad aver pagato il prezzo più alto in termini di lavoro in questa pandemia. Io almeno ho dovuto rinunciare con tre figli a casa a causa della chiusura delle scuole, anche lo smart working per me era diventato un'impresa impossibile. Sono proprio curiosa di vedere se questa volta faranno davvero qualcosa per noi. E dunque parliamo proprio di questo, di quello di cui ci ha informato il messaggio vocale che avete sentito prima, quello di Giulia, perché ne avevamo discusso la settimana scorsa ed è tornato assolutamente alla ribalta nella settimana che si chiude questa domenica. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle richieste che erano venute da molte organizzazioni, dalla società civile, dalla politica, si è impegnato in un passaggio del suo discorso alla Camera perché una parte significativa delle risorse del Recovery Fund venga indirizzato per promuovere l'occupazione femminile. Al Premier Conte si erano rivolte ben 7 associazioni chiedendo che il governo consideri le donne un investimento strategico per la crescita del paese, e tra queste associazioni anche il Giusto Mezzo. Ricorderete che la settimana scorsa è stata nostra ospite proprio la professoressa Azzurra Rinaldi, economista dell'Università La Sapienza, che è tra le promotrici del Giusto Mezzo. Non solo. Un appello in questo senso è venuto dal Presidente della Repubblica Mattarella, che nei giorni scorsi ha ricevuto le vincitrici del premio Marisa Bellisario insieme ovviamente alla Presidente della Fondazione Lella Golfo, e Mattarella ha ricordato il ruolo che le donne hanno avuto nella pandemia e ha ricordato come sia inaccettabile il dato del 48,8% di donne italiane occupate. E allora vorrei capire come concretamente si possa passare dalle parole ai fatti, e lo facciamo con un economista che è stato a lungo nelle stanze dei bottoni del Ministero dell'Economia, che oggi, oltre alle sue attività internazionali, è anche il presidente di un'associazione Minima Moralia che su questo tema dell'occupazione femminile ha presentato, sta studiando proprio una proposta. E dunque, buona domenica, Fabrizio Pagani. Buongiorno, buongiorno. Ecco, allora, com'è che adesso tutti si sono accorti che se le donne italiane non tornano a lavorare o non cominciano meglio a lavorare a ritmi europei, non c'è sviluppo, non c'è crescita per l'Italia? Che cos'è che ha fatto scattare il declic? Ma è un tema che è presente da tempo, però sicuramente la pandemia ha contribuito fortemente. Perché naturalmente se i bambini non vanno a scuola, se ci sono problemi con la famiglia, sulla riorganizzazione, eccetera, sono le donne che di fatto chiamate a averne il peso maggiore e a prendere le responsabilità, diciamo così, domestiche principali. Quindi questo dobbiamo considerarlo un ulteriore portato di quello che è successo e che sta succedendo, ma speriamo che proprio per questo abbia anche un effetto positivo, cioè concentri l'attenzione su una delle questioni, come dire, da più lungo tempo irrisolte nel nostro sviluppo economico, perché la questione dell'occupazione femminile è una questione di equità, di parità tra i generi, quindi io direi di diritti umani, ma è anche una questione di sviluppo economico. Insomma, l'OCSE ha molto scritto su questo. Se partecipa soltanto metà della popolazione al mercato del lavoro, l'economia non può sicuramente svilupparsi, ecco, in maniera adeguata. Ecco, io ho avuto modo di leggere la proposta che la sua associazione Minima Moralia ha con puntualità avanzato. Su che cosa si dovrebbe puntare? Su tre, quattro cose per favorire l'occupazione, ce le vuole dire? Sì, e grazie, lei ne ha anche parlato appunto sul messaggero. Io direi che anzitutto è una questione di metodo, bisogna comprendere, e questo è un punto molto importante, che non c'è una singola misura, non c'è una scorciatoia che possa risolvere o affrontare il problema. Bisogna partire da un insieme di provvedimenti, di misure concrete e di cambiamenti culturali e di atteggiamento societario che devono essere in qualche modo sotto la regia dell'autorità pubblica e che concernono vari settori, dall'istruzione alla sanità, al sociale, alla previdenza, al diritto del lavoro, alla cultura, all'immigrazione, Ma direi. per fare qualche esempio, no? Si dice sempre senza asili nido per i bambini da 0 a 3 anni che occupino almeno il 50% di questi bambini, le donne non possono tornare al lavoro. Quindi la questione asili nido è fondamentale? La questione dell'individuo è fondamentale, ma sempre nel campo dell'istruzione non è sufficiente perché le donne si occupano anche dei bambini una volta che sono usciti dall'asilo nido. Bisogna parlare anche della scuola e del tempo pieno. L'Italia ha un utilizzo del tempo pieno, il cosiddetto anche tempo scuola, molto limitato. I bambini stanno troppo poco tempo a scuola e spesso poi l'alienazione, la marginalità nasce in queste ore fuori dalla scuola in cui che accrescono le disuguaglianze perché le famiglie che hanno maggiori mezzi riescono comunque a occupare i propri figli in attività formative, in attività culturali, e chi invece non ha i mezzi finiscono per magari passare il tempo davanti a un computer o al telefono. Qui per il tempo pieno bisogna fare quello che si propone per gli asili, cioè bisogna far sì che vi sia la possibilità di accedere al tempo pieno su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme. Oggi è estremamente frammentato l'accesso al tempo pieno. All'interno di una stessa regione come la Lombardia vi sono delle province dove il tempo pieno è molto diffuso e vi sono altre dove è quasi sostanzialmente assente. E naturalmente poi rimane il divario nord-sud che anche in questo caso gioca un ruolo. Senta, tra le proposte che avanza l'associazione Minima Moralia c'è anche quella della defiscalizzazione delle badanti, delle babysitter, perché è chiaro che se uno stipendio se ne va in stipendio della babysitter, una mamma dice: beh, ma no, allora me li guardo io i miei figli. Lei è stato per tanti anni, quando era ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, al Ministero del Tesoro. Qual è l'ostacolo che impedisce di defiscalizzare le babysitter, ma anche le badanti dei tanti anziani? Siamo un paese con un tasso di anzianità elevatissimo. È una questione di soldi che mancano all'erario, e ora con il recovery fund questo ostacolo potrebbe venir meno, secondo lei? Il tema risorse c'è sempre, però a mio avviso, come in molti casi, non è il tema principale. È un tema di organizzazione, di focalizzazione dell'attenzione della politica, diciamo così, dei decisori su queste questioni. Io credo che ha detto molto bene a mettere in campo anche la questione degli anziani, perché alla fine anche lì sono le donne che di fatto finiscono per occuparsene molto più che gli uomini. Quindi che sia un voucher, che sia una forma di defiscalizzazione, vi sono tanti modelli, si possono studiare, alla fine hanno tutti lo stesso effetto, cioè di alleggerire il carico, il peso economico di avere una persona di sostegno a casa. Però questo va combinato dall'altro lato, cioè guardando anche alle persone che forniscono questo aiuto, che devono avere comunque una loro professionalità, soprattutto nel caso degli anziani, devono avere un loro trattamento regolare se sono degli stranieri, in particolare non comunitari, quindi c'è un tema anche di gestione dell'immigrazione, l'immigrazione regolare. C'è un tema di previdenza, queste persone sono persone magari che hanno un lavoro saltuario, quindi bisogna garantire anche a loro una dignità e delle forme di previdenza adeguate, perché se l'intero sistema, come dire, è fragile, è un po' sgangherato, anche la cura che ne ricevono le famiglie risulta nello stesso modo. Quindi è veramente un lavoro organico di regia che va fatto, di cucitura, e posso dire una cosa forse un po' moralista, però è un lavoro certosino attraverso il quale non si finisce sulle pagine dei giornali e che però i politici dovevano imparare in qualche modo ad affrontare. Ecco, soprattutto credendoci, perché varare finalmente un sistema di asili nido con personale preparato, varare finalmente il tempo pieno con grande attenzione alle scuole elementari e medie, perché è lì che si crea il disagio familiare, il disagio dei ragazzi, in tutto il territorio nazionale, non come giustamente osservava lei, Pagani, con questi divari sud e nord. Defiscalizzare finalmente tutte quelle attività di collaboratrici domestiche, babysitter, badanti, che sollevano poi le donne che lavorano dal loro doppio o triplo lavoro. Ecco, tutto questo richiede un piano. Io vedo che appunto il presidente Conte, il presidente del Consiglio, ne ha parlato. Mattarella ne ha parlato proprio ufficialmente nell'incontro che ha avuto con le premiate della Fondazione Bellisario. Lei ha l'impressione che stia diventando un tema vero, perché c'è stato anche un intervento del segretario del PD Nicola Zingaretti, perché, come dicono, ce lo impone l'Europa, o proprio perché c'è anche una consapevolezza da parte di tutti? Anche il presidente di Confindustria Bonomi ne ha parlato all'assemblea di Confindustria. Io penso che il Recovery Fund sia l'opportunità, però non un'opportunità perché ci dà le risorse. Ancora una volta, le risorse sono importanti, ma non sono il tema veramente chiave. Io penso che il Recovery Fund sia il catalizzatore di attenzione. Se noi mettiamo sotto il cappello Recovery Fund e presentiamo un progetto al Paese e naturalmente all'Europa, per questo, al di là delle risorse che possono essere Cioè, per importanti, ma forse l'occupazione delle neanche donne. per l'occupazione delle donne, le risorse possono essere importanti, ma come dire, ingenti, ma neanche forse così come tanto come pensiamo, riusciamo a catalizzare l'attenzione su questa questione e riusciamo a portarla avanti. Se invece lo facciamo con i mezzi ordinari, diciamo così, con la politica e le politiche ordinarie di questi anni, secondo me non ce la facciamo. Quindi è ora o mai più? Oppure, se vogliamo usare un claim di un movimento, se non ora, quando? Grazie, grazie a Fabrizio Grazie a Pagani che è voi. stato con noi anche questa domenica. Buona giornata. Noi ci fermiamo per un attimo e torniamo tra pochissimo. Ora! È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, su Aruba.it. Nessuna è perfetta. Eccoci, eccoci, siamo al secondo ospite di questa puntata di Nessuna è perfetta, dedicata al faro che si è acceso finalmente sulla necessità di usare, di utilizzare una parte almeno dei fondi del Recovery Fund per togliere il tappo all'occupazione femminile che è statica e stitica in Italia da troppi anni. Ricordavo che ne ha parlato il Presidente del Consiglio Conte in aula illustrando le linee guida del Recovery Fund. Ricordavo anche che ne ha parlato il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando le premiate della Fondazione Bellisario e a questo noi ci ricolleghiamo perché? Perché tra le premiate ci sono anche le due imprenditrici selezionate da Intesa San Paolo, perché molte donne, non trovando lavoro, spesso si sono come dire, improvvisate, ma con successo spesso, piccole imprenditrici e hanno deciso appunto che il lavoro se lo creavano loro. E poi ci sono anche molte medie aziende italiane, finalmente, magari col passaggio di generazioni, affidate alla guida di imprenditrici. Di tutto questo parliamo con Stefania Trenti, responsabile Industry Research, Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Buona domenica, dottoressa Trenti. Buongiorno a tutti. Allora, dottoressa Trenti, siamo in una fase di incertezza, non sappiamo se si riproporrà il tema del lockdown che già tanti danni ha procurato all'economia italiana e in particolar modo anche alle piccole e medie imprese, molte delle quali gestite, da donne. Che cosa accadrebbe, secondo lei, all'economia italiana se si dovesse arrivare a un secondo lockdown? Beh, non è una domanda facilissima, è difficile quantificare i danni in modo preciso senza avere poi le informazioni su quanto durerà questo lockdown eventuale e anche su quali settori poi potrebbe andare a colpire. Attualmente siamo in una fase di forte recupero dell'economia italiana, in particolare abbiamo i dati dell'industria che sono stati confortanti, anche ieri è uscito il dato di fatturato del mese di agosto, reso noto dall'Istat, e per cui siamo confortati dal fatto che c'è un rimbalzo nel terzo trimestre. Che cosa potrà succedere? Dipenderà anche dalla nostra capacità di reagire. Abbiamo visto attraverso, tra l'altro, l'esempio delle imprese finaliste del Women Value Company, del premio che Intesa San Paolo fa insieme alla Fondazione Bellisario, che alcune imprese sono state più in grado di resistere, sono state più resilienti anche nella fase difficilissima del lockdown completo che abbiamo vissuto nei mesi primaverili. E molte imprese di quelle che selezionate per la parte finale del premio, che noi abbiamo sentito attraverso una serie di interviste e di un'inchiesta realizzata ad hoc, hanno dimostrato una maggiore capacità di resilienza. Sicuramente c'è un effetto legato appunto ai settori che sono importanti per capire, alcuni settori avevano un lockdown più stretto, altri meno, ma è stata anche proprio una capacità di queste imprese di mettere in atto delle reazioni, delle azioni per reagire alla situazione specifica e assolutamente inedita che abbiamo vissuto. La maggior parte delle imprese ha messo a punto delle attività di informazione di triage, gli aspetti relativi alla sanificazione e soprattutto la cosa importante e interessante è che queste imprese rispetto all'universo che è stato monitorato dall'Istat hanno evidenziato una maggiore capacità di mettere in atto della formazione. Perché l'attenzione al capitale umano è una delle caratteristiche che contraddistingue le imprese al femminile, e si è visto anche nella fase del lockdown, la fase di crisi peggiore, e questo ha fatto sì che ci fosse un maggiore coinvolgimento, una maggiore capacità di mettere in atto iniziative come lo smart working, che queste aziende hanno adottato in misura nettamente superiore rispetto alle altre, e questo ha fatto sì che poi riuscissero anche ad avere dei risultati, delle performance in termini dei fatturati. Senta, dottoressa, dottoressa Trenti, se io dovessi sintetizzare un po', allora direi che le imprese che voi avete valutato gestite da donne imprenditrici sono state più rapide nella reazione e soprattutto hanno dato peso, valore alla formazione del capitale umano che lavora in un'azienda, e questo, l'elemento della formazione, consente poi di essere anche più competitivi. Dico bene? Ho capito bene o no? Sì. Sì, sicuramente è un aspetto importante, attenzione al capitale umano, ma anche una capacità per esempio di prepararsi con investimenti nella digitalizzazione, uno smart working efficace, anche uno smart working sostenuto da investimenti nel mondo digitale sicuramente. La fotografia che emerge dalla vostra ricerca è quella di un paese che crede nelle nuove energie femminili, anche quando si tratta appunto di mettere su un'impresa dal niente, non avendo, come dire, una tradizione di famiglia, oppure c'è ancora tanta diffidenza, anche difficoltà a investire in un'impresa che parte, in una startup che abbia una donna alla guida? Beh, le difficoltà ci sono, è inutile nasconderlo, però c'è anche ci sono in atto dei cambiamenti importanti. La letteratura ci dice che spesso le donne soffrono di questo gap imprenditoriale, soprattutto dal punto di vista della mancanza di fiducia, non so, da clienti o i fornitori, e una parte della letteratura mette in evidenza anche il rischio che ci sia, per esempio, una difficoltà nell'accedere al credito. Bene, io penso che per esempio l'esempio di Intesa San Paolo, ma anche con questo premio, è anche quello di mettere in evidenza che da questo punto di vista le difficoltà stanno diminuendo, cioè c'è una maggiore attenzione complessiva del paese, incluso il sistema finanziario, nelle nuove iniziative, nelle nuove start-up, soprattutto quando vengono dai giovani. La discriminazione si fa su altri fattori e non sul genere. Si fa sulla validità del progetto e non su chi lo presenta. La credibilità, in questo senso, ci sono stati dei passi avanti, mi viene da pensare, e ancora possono essere fatti degli ulteriori passi in avanti. Lei citava prima i fondi in arrivo sul del recovery fund, cosiddetto recovery fund di Next Generation, in questo senso anche prevedere degli incentivi maggiori, un canale privilegiato per i progetti e le imprese femminili può dare un grande contributo a creare anche un clima favorevole, un clima ulteriormente favorevole. Certo. Certo, noi ne siamo qui a nessuno è perfetta, ne siamo totalmente convinti. Le chiedo un'ultima cosa, dottoressa Trenti, e capisco che in questa fase attingere all'ottimismo è un esercizio che richiede molta volontà, però lei che appunto ha sotto mano i dati, le cifre, attraverso dati e cifre sulla, diciamo, resilienza delle donne imprenditrici italiane, vede qualche opportunità che viene da questa pesantissima crisi? Beh, l'opportunità a mio avviso è legata alla consapevolezza del fatto che alcuni fattori competitivi sono fondamentali. Citavo prima la digitalizzazione, citavo prima l'attenzione al capitale umano, L'altro aspetto importante che contraddistinguerà anche poi la ripresa è sicuramente anche una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, ed è un modo di fare impresa più attenta al capitale umano, alle persone che lavorano, più attenta anche alle ricadute sull'ambiente, che si sposa molto con dei modelli vincenti di imprenditoria anche femminile. Senta, e quando un'impresa gestita da una donna fallisce, che cosa succede di solito? L'imprenditrice ci riprova, come nei film americani, oppure si, come dire, si deprime e cerca un lavoro, se lo trova, da dipendente? Guardi, io penso che da questo punto di vista non ci siano delle fortissime differenze tra un uomo e una donna. Un'impresa, un fallimento di un'impresa è sempre comunque un evento importante. Ci sono persone che reagiscono poi, i cosiddetti imprenditori seriali, creando subito una nuova iniziativa. La differenza probabilmente tra un uomo e una donna in questo senso è nelle opportunità, che poi probabilmente un uomo nel contesto attuale ha maggiori opportunità di trovare eventualmente un'altra occupazione con anche dei salari più elevati. Ecco, questa è la differenza poi di fondo che c'è ancora molto tra l'universo femminile, il lavoro femminile e quello maschile. Ed è una differenza sulla quale appunto in molti stanno battendo. Ne abbiamo parlato prima anche con Fabrizio Pagani, ne parlano le associazioni che hanno chiesto al Presidente del Consiglio Conte e alla politica di investire parte del Recovery Fund proprio per fare sì che queste disparità, queste diseguaglianze non ci siano. E noi siamo qui a Nessuna è Perfetta a ascoltare anche le vostre esperienze. Fatecelo sapere all'828 1212, il numero della nostra casella vocale. Io ringrazio Stefania Trenti, responsabile Industry Research, studi e ricerche di Intesa San Paolo, per essere stata con noi questa domenica. Grazie. Grazie a voi, buona giornata, buona domenica a tutti. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo. Nessuna è perfetta. Benvenuta, buona domenica, da Anna Maria Roscio, responsabile della direzione Sales and Marketing, che riguardano appunto il mondo delle imprese, ed è la direzione di Intesa San Paolo. Bene, dottoressa Roscio, buona domenica. Lei è a capo del settore piccole e medie imprese di Intesa San Paolo. Parliamo di 200.000 piccole e medie imprese che fatturano dai 2 milioni e mezzo ai 350 milioni di euro, ed è uno spaccato importante per l'economia del paese. Tutto ciò, lei ha preso questo incarico e pochi mesi dopo è scoppiato il problema pandemia. Come sta influendo la pandemia sulla forza, diciamo, delle piccole e medie imprese, in particolare quelle guidate da donne? Sì, intanto buongiorno a tutti. Ha detto bene, nel senso che io sono arrivata alla responsabilità di questo settore a gennaio, e poi a febbraio abbiamo dovuto rivedere completamente tutti i nostri piani di lavoro proprio per gestire la pandemia. Allora, diciamo che nella primissima fase, quindi da febbraio fino alla fine di maggio, è chiaro che le imprese erano anche molto, molto scombussolate, ecco, molto disorientate, e la paura era tanta, e dunque tutto quello che noi abbiamo fatto è stato quello di cercare di sostenere le piccole e medie imprese con iniezioni di liquidità, quindi con tutti i finanziamenti connessi ai decreti del governo per dare liquidità alle piccole e medie imprese. È stato un grandissimo lavoro che ha riguardato evidentemente tutta la parte delle moratorie, dei finanziamenti, però devo dire un lavoro che ha dato grandi risultati, insomma, no? E ha consentito a molte imprese di avere quelle risorse necessarie per poter affrontare quella crisi così imprevista e inattesa. Nella seconda fase, quindi da giugno in avanti, quindi con la fine del lockdown, abbiamo assistito invece a una ripresa, ecco, a una voglia di ricominciare, anche alla capacità di molte piccole e medie imprese di riconvertire o rivedere quelli che erano i loro modelli di business, di ritornare anche a investire su filoni necessari per la ripresa. E questo riguarda tutte le PMI. Sicuramente le imprese guidate dalle donne sono quelle che forse hanno patito di più il periodo della pandemia, perché comunque hanno avuto anche degli impatti più familiari, ecco, rispetto ad altri, però il vigore, l'energia e la capacità, la creatività, insomma, di queste imprese ha fatto sì che tante ce la stiano facendo e stiano ricominciando, insomma, la loro attività, la loro produzione. Ecco, dottoressa Roscio, molte donne in Italia non trovano lavoro. Le più intraprendenti allora si industriano da sole, no? Negli anni passati sono nate tante micro imprese gestite da donne, per esempio nel settore del turismo, ma anche nel settore dei servizi, dell'estetica. Lei pensa che questa difficile fase lascerà sul terreno molte di queste micro aziende gestite da donne, e che cosa si può fare per evitare questo, visto che è un'attenzione ormai universale quella all'occupazione femminile? Lo dicevamo prima, ne ha parlato il Presidente del Consiglio a proposito dei fondi da indirizzare su questo terreno con l'arrivo del Recovery Fund, ne ha parlato il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando le donne premiate proprio dalla Fondazione Bellisario. Ma allora, sicuramente quelli che lei ha citato sono i settori che sono stati più colpiti dalla pandemia e sono i settori nel quale c'è una maggior concentrazione delle imprese al femminile, anche se abbiamo assistito negli ultimi anni a anche l'apertura di imprese in settori diversi, insomma, anche quelle una grande componente tecnologica e quindi anche a una diversificazione dei settori. Che cosa si può fare? Allora, certamente la liquidità immessa consente, come dire, di traguardare, no? E di sperare, insomma, di superare quelle che sono le fasi attuali di difficoltà. C'è un tema, secondo noi, molto forte di formazione, che è indispensabile e che è ancora più necessaria, ecco, su questo tipologie di imprese, e c'è un tema di trovare, e molte imprese lo stanno facendo, anche modelli di business diversi. C'è stata una grande esplosione dell'e-commerce, c'è stata una grande esplosione di lavori fatti a distanza, quindi è chiaro che c'è necessità, insomma, di trovare quelle leve, quei filoni di trasformazione anche aziendale per consentire, insomma, di continuare a operare in un contesto, in uno scenario che è radicalmente mutato. Lei ha il polso della situazione, di prima mano, no? Perché si sta occupando della sorte di 200.000 imprese. Se potesse dare un consiglio ai nostri politici, che devono indirizzare molto rapidamente anche gli investimenti che arriveranno, si spera non tra un anno, dall'Unione Europea, ecco, se dovesse consigliare una cosa per aiutare l'occupazione femminile, cosa consiglierebbe? Ne consiglio due, se posso. Uno, di investire nella formazione, quindi di destinare le risorse a consentire, insomma, una formazione evoluta per le imprenditrici, e la seconda cosa è quella di favorire gli investimenti sulla digitalizzazione. Questa esperienza tragica ci ha insegnato che c'è una necessità, ecco, urgente di trasformare e di far evolvere in chiave digitale le nostre imprese, che erano già comunque indietro rispetto alle aziende europee su questo fronte, e quindi oggi l'imperativo della digitalizzazione non è più procrastinabile, e dunque io credo che le risorse debbano essere indirizzate su questi due, su questi due filoni. Negli ultimi due minuti che ci rimangono, io penso sempre alle mamme, ai papà che ci ascoltano e anche ai ragazzi che ci ascoltano, e penso che sia utile dare loro, come dire, un flash sui percorsi, che i percorsi, l'istruzione che ha portato le persone che noi intervistiamo ai ruoli che ricoprono. Lei, per esempio, che studi ha fatto e che formazione ha avuto per diventare una importantissima manager di Intesa San Paolo, che guida appunto il percorso di aiuto a 200.000 imprese? Ma allora, io ho una storia di studi economici, quindi io mi sono laureata in economia e commercio, ho poi proseguito dopo la laurea, dopo un'esperienza breve in una città di consulenza, anche attraverso un master di specializzazione, quindi sicuramente la formazione universitaria è stata fondamentale ed essenziale. Poi però non basta, io credo che sia necessario coltivare sempre e costantemente le proprie competenze e continuare a studiare. Il mondo del lavoro ce lo consente, ma soprattutto anche ricercare nell'esperienza lavorativa quelle che sono delle esperienze trasversali, quindi avere la possibilità di vedere nell'ambito di una stessa azienda più filoni, più divisioni, più aspetti, e questo è sicuramente un elemento arricchente e formativo. Quindi sicuramente una buona cultura di base, ma poi mantenere sempre quella curiosità e quella voglia di apprendimento e di rafforzamento delle competenze che il mondo attuale richiede come costante aggiornamento. E che tante donne hanno, perché lo ricordiamo, noi abbiamo un bassissimo tasso di laureati in Italia, solo il 20% rispetto invece a paesi europei con un tasso più alto, e di questo 20%, più della metà è costituito da laureate. Dovremmo utilizzarle meglio. Grazie ad Anna Maria Roscio, responsabile della direzione Sales e Marketing Imprese di Intesa San Paolo. Buona domenica. Grazie a voi che ci avete seguito anche in questa puntata di Nessuna è Perfetta. Abbiamo fatto un trittico di puntate dedicate all'occupazione, abbiamo parlato nelle settimane scorse di una riduzione delle tasse per le donne che lavorano, abbiamo parlato di usare i soldi del Recovery Fund per finalmente consentire questa energia femminile che è inutilizzata in Italia di dare un contributo al paese. Questa era la terza puntata in cui ci siamo occupati di questo argomento. Domenica prossima cambiamo tema, ma sempre con un tenendo d'occhio per le puntate che verranno come e se dalle parole si intenderà passare ai fatti. Buona domenica a voi, grazie come sempre ad Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani nella confezione di questa puntata di Nessuna è Perfetta. Buona domenica, ci ritroviamo col caffè della domenica e con Nessuna è Perfetta tra una settimana. Ciao! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.